Mai una volta che mi dai una mano. Sei sempre il solito. Non si può mai contare su di te. Ma possibile che sbagli sempre? Mai e sempre. Due parole terribili. Sono parole che inchiodano, parole che identificano la persona con il suo errore. Sono parole che non lasciano speranza, sia in chi le riceve sia anche in chi le pronuncia. Sono parole che fanno di tutta l'erba un fascio ed hanno un forte potere di far sentire inadeguati. Quando le usiamo diventiamo incapaci di vedere l'altro in modo sereno e costruttivo, perché queste due parole, sempre e mai, sono una condanna senza appello. Nella vita non c'è sempre e mai, perché la vita è un processo, è un cambiamento continuo in cui si mettono in conto sia le cadute sia il fatto di rialzarsi e provare a ricominciare. Ma quando noi diciamo sempre e mai, è come se togliessimo all'altro questa possibilità, questa speranza. Non fai mai ciò che ti chiedo, sei sempre in ritardo e non ne fai mai una giusta. Immagina tuo figlio mentre sta imparando ad andare in bicicletta. Per un po' riesce, poi perde l'equilibrio e cade. Sei sempre per terra, devi andare più piano, non fai mai ciò che ti dico. Non credo che gli parleremmo così. Oppure invertiamo il discorso. Quando qualcuno ci parla così, non sentiamo una grande tristezza dentro e anche una grande rabbia, perché pensiamo che in fondo non è vero che sbagliamo sempre, non ne facciamo mai una giusta. Certo, qualche volta sbagliamo, qualche volta non ascoltiamo, ma non è che lo facciamo proprio sempre. A volte diciamo sempre oppure mai perché siamo esasperati o magari per semplificare la realtà, ma se fossimo onesti non dovremmo mai usare queste due parole. Al limite dovremmo dire spesso, qualche volta, quasi mai. Eppure, specialmente nella coppia, queste parole creano così tante incomprensioni, così tante frustrazioni, così tanto dolore. Sempre e mai sono parole che appartengono ad un modo violento di esprimere la realtà, perché la banalizzano, la semplificano eccessivamente. E molto spesso frasi con queste due parole suonano come un'accusa e si sa come va a finire. Quando ci sentiamo accusati, molto spesso accusiamo a nostra volta, ci difendiamo e magari diciamo sì, lo dici proprio tu, che poi invece sei sempre lì che fai quella cosa e quell'altra. E così va avanti questo protrarsi di generalizzazioni violente che non aiutano l'altro a crescere, né aiutano noi ad esprimere in modo sereno i nostri bisogni. Il suggerimento per questa settimana credo che l'avrai capito. Prova innanzitutto ad accorgerti quando usi questi due avverbi, quando usi frasi in cui generalizzi, in cui dici sempre, in cui dici mai. Prova anche a chiederti come mai usi frasi di questo tipo e prova a chiederti soprattutto come suonano queste frasi all'altra persona. Sono un incoraggiamento, sono un modo di correggere l'altra persona, o piuttosto sono un'accusa, sono un mettere questa persona nelle condizioni di sentirsi in colpa per qualche motivo. Prova a metterti anche nei panni dell'altro e a cercare di capire quanto espressioni di questo tipo non aiutino l'altro a venirci incontro. E prova anche allora a trovare qualcosa di diverso. Invece di dire "non mi aiuti mai", prova magari a dire "potresti aiutarmi per favore?". Chiedete e vi sarà dato, perché è meglio chiedere che pretendere, è meglio incoraggiare che incolpare. Sì, lo so che è arrivato a questo punto, dico sempre che bisogna iscriversi e bisogna attivare la campanella. Del resto, se qualcuno non l'ha ancora fatto, magari è la volta buona, no? Oppure se non ti compare la possibilità di iscriverti su YouTube, vai su www.comunicaresorrisodidio.it. Entra nella sezione iscriviti e lascia il tuo indirizzo email.